Sezione 13 di Odi Barbare di Giosuè Carducci. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Simona Perego. Dinanzi alle terme di Caracalla. Corron fra il Celio fosche e l'Aventino le nubi. Il vento dal pian tristo move umido. In fondo stanno i monti Albani, bianchi di neve. Alle cinere trecce è alzato il velo verde. Nel libro una britanna cerca queste minacce di romane mura, al cielo e al tempo. Continui, densi, neri, crocidanti, versansi corvi come fluttuando contro i due muri, ch'a più ardua sfida levansi enormi. Vecchi giganti, par che insista irato l'augure stormo, a che tentate il cielo? Grave per l'aure vien da Laterano suon di campane. Ed un ciociaro, nel mantello avvolto, grave fischiando tra la folta barba, passa e non guarda. Febbre, io qui ti invoco, nume presente. Se ti fur cari i grandi occhi piangenti e delle madri le protese braccia a te deprecanti, o dea, dal reclinato capo dei figli. Se ti fu cara sul palazzo eccelso l'ara vetusta, ancor lambiva il tebro levandrio colle e veleggiando a sera tra il Campidoglio e l'Aventino, il reduce Quirite guardava in alto la città quadrata dal sole arrisa e mormorava un lento Saturnio Carme. Febbre, m'ascolta, gli uomini novelli quinci respingi e lor picciole cose. Religioso è questo orror, la dea Roma qui dorme. Poggiata il capo al palatino augusto, fra il cielo aperte l'Aventin le braccia, per la capena i forti omeri stende all'Appia via. Fine della sezione 13.